nell'ambiente. Ogni persona muore di la tristezza e media nel planeta. Somos víctimas de una guerra en la que se disputa el poder y el control. Oh!